Grazie pastore, grazie anche al gruppo Lode, vogliamo fare un applauso a loro. Grazie per il vostro servizio. Saverio, che bello averti al basso di nuovo. Noi lo mettiamo al basso non perché sa suonare il basso, ma per i baffi che porta. Perché il look conta molto di più, lo sapete, noi musicisti è molto più importante il look che il talento. Anche per questo abbiamo peccato, se n'è andato Fabio, se no lo prendevo sotto. Allora, quanti hanno già il CD Stai con noi? Bene, allora, queste mi hanno detto che sono le ultime due copie e io le voglio regalare, perché ora le regaleremo e finalmente faremo un nuovo ordine e altre stampe, nuove copie di Stai con noi, perché merita questo CD. Quanti ce l'hanno e gli piace anche? Beh, chi non ce l'ha, posso vedere la mano? Bene, alta. Enza, non c'hai? Stai con noi. Enza, prego, a te. Marcello. prego, perché questi sono CD per bambini, ok? Però in realtà piacciono più ai grandi, è vero? Quanti amano Stai con noi, se lo mettono e ballano in casa? Poi abbiamo anche Tu sei Dio, questo è fantastico, questo è il CD che abbiamo prodotto ed è per tutti, per tutte le età. Io lo voglio regalare a Daniela, che ho appena conosciuto, e quindi un regalo per te, amica di Gloria, benvenuta. È bello che ci sono persone per la prima volta in mezzo a noi, vogliamo fare un applauso di benvenuto. Grazie che ci siete. Sempre un grosso privilegio per noi come Chiesa ospitare persone che vengono per la prima volta. Sappiamo che la prima volta è sempre un'impressione molto forte, questa è vera per tutti gli ambienti nuovi che noi viviamo nella nostra vita. Entri in un nuovo negozio, entri in un nuovo ristorante, entri in un nuovo posto e ti senti un po', no, scomodo, però noi vogliamo che tu ti possa sentire questa sera e ogni qualvolta verrai a casa tua, perché siamo in famiglia, ok? Possiamo essere noi stessi, siamo un gruppo di persone imperfette, lo posso dire? Siete tutti d'accordo con me? O c'è qualcuno che si vuole alzare e dire no, Mirko, ti stai sbagliando alla grande, io sono perfetto. C'è qualcuno? Nessuno, benissimo, sono nel posto giusto, nella chiesa giusta, fatta di persone imperfette, perfezionate solo da quell'unico uomo che ha vissuto la vita perfetta, il cui nome è Cristo Gesù. Dipendiamo da Lui, vero? E siamo beati e benedetti da Lui. Io questa sera voglio parlare di relazioni, perché le relazioni sono una tematica particolare ed estremamente, estremamente importante. Io sono benedetto da meravigliose relazioni nella mia vita. Primo fra tutti mio padre. Io dico sempre, io da grande voglio essere come a lui. Anche perché sono giovane ancora, quindi io da grande voglio essere come a lui. Sapete quando è stata l'ultima volta che io e mio padre abbiamo litigato? Io non me lo ricordo. E vedo che anche papà non se lo ricorda. Non è meraviglioso? È meraviglioso poter dire sinceramente davanti a voi, io non mi ricordo quando ho litigato l'ultima volta con mio padre. Io non mi ricordo quando ho litigato l'ultima volta con mia madre. Io non ricordo quando ho litigato l'ultima volta con mio fratello Gianluca e Carli. Sapete che cosa significa per me questo? Significa che io, quando torno a casa e ogni domenica noi pranziamo insieme, domani pranzeremo insieme con la famiglia allargata. Sapete cosa significa per me questo? Significa entrare in un contesto di pace, di rilassatezza, di sicurezza, di gioia, di scambi che mi fanno solo e sempre bene. E anche quando le cose vanno storte, perché succede che le cose vanno storte, le cose vengono messe al posto giusto, perché sempre viste sotto l'ottica della parola di Dio e sotto quella prospettiva che Cristo solo ci può dare. E sapete, io ho speranza di diventare come mio padre, un uomo umile, mansueto, buono, accogliente, perché io conosco il segreto di mio padre. E il segreto di mio padre non è Pinuccio Ronchi. Il segreto di mio padre è Cristo Gesù. Tu hai la speranza di poter vivere relazioni pacifiche, essere un uomo diverso, essere una donna diversa, se scopri quello che è il segreto che cambia e trasforma le vite ancora oggi, il cui nome è Cristo Gesù. Gesù è vivo. Gesù è vivo, e questa è la buona notizia che abbiamo da ricordarci questa sera. E se Lui è vivo, la nostra speranza è viva. E visto che Lui è vivo, la nostra speranza è viva, tu puoi cambiare e tu puoi beneficiare di relazioni che funzionano. Ora, visto che neanche stasera c'è mio fratello, vedo. Questa è interessante, è la prima domenica che vedo che mio fratello si assenta. Forse litigheremo per... Però visto che lui non c'è, io mo apro i salmi, non glielo dite, ok? E voglio predicare dal Salmo 1, la predica che ha fatto lui, potete trovarla su YouTube, e ricalcare quelle che sono state le sue parole, meravigliosi. Quindi voglio leggere con voi il Salmo 1, vedete come inizia. Il Salmo 1, ad apertura di questo meraviglioso libro, c'è questa parola bellissima. Il Salmo 1, i salmi si aprono con la parola beato l'uomo. Beato l'uomo. Beato tu uomo. Anche tu donna, eh? Cioè vale per tutti e due i sessi, e questo significa che la Bibbia sta parlando a tutti noi. Beato tu bambino, beato tu adolescente, beato tu anziano, beato tu uomo. Beato l'uomo, dice la parola di Dio, Salmo 1, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Così comincia il Salmo. Ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte, egli sarà, senza ombra di dubbio, senza se, forse, ma, egli sarà. È una attestazione, è una promessa, è una dichiarazione. Lui sarà, quest'uomo sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà. Dio ti sta dicendo, e questo è quello che continuamente fa attraverso la sua parola, che tu puoi essere un albero rigoglioso che ha foglie che sono sempre verdi, sempre ben alimentato da un ruscello e che gode di gioia, perché beato significa felice, felice l'uomo. Noi siamo felici nel momento in cui scegliamo accuratamente le nostre relazioni. Questo sta dicendo anche in altri termini questo Salmo. Sta dicendo bada bene alle persone con le quali cammini, bada bene alle persone con le quali ti fermi, bada bene alle persone con le quali ti siedi. E la mia domanda a te questa sera è: con chi stai camminando? Quali sono le tue relazioni? Con chi stai camminando, con chi ti stai sedendo, con chi ti stai fermando? In altri termini, queste parole stanno esprimendo il fatto che noi possiamo essere influenzati da relazioni negative che hanno il potere e l'autorità in noi di distruggere quello che è il piano di Dio per noi. Seleziona bene le persone con cui stai. E posso dirti una cosa? Stasera sei in buona compagnia, sei seduto nel posto giusto, stai camminando nella strada giusta, ti sei fermato nella via giusta. Forse non te ne sei reso conto, forse vieni in chiesa da tempo, ma posso dirti una cosa con estrema certezza, che questo gruppo di persone, noi, per quanto imperfetti, per quanto ancora in corso d'opera, siamo il contesto e siamo il potenziale di relazioni migliori per la tua vita. E se tu riesci a relazionare con la Chiesa di Cristo, inevitabilmente sarai beato. Scegli bene le tue compagnie. Gesù riprende questa parola beato, e lo sappiamo tutti, nel Sermone sul Monte fa una lunga predicazione a migliaia di persone e elenca le persone che, secondo quello che è il suo insegnamento, hanno la possibilità di essere beate. Gesù sta dicendo, sta insegnando: se voi ascoltate queste mie parole, se voi fate quello che io vi sto dicendo, voi sarete beati. Ieri cercavo dei detti baresi, perché i detti baresi sono bellissimi, no? Così, scusate se apro questa parentesi, però mi è venuto ora in mente. E c'era un detto che ho letto ed è: a lava la faccio ciuccio. No, ce l'avete presa? A lava la faccio ciuccio. Se perde timb, sapone e acqua. Ah, come lo sapete, meglio di me. Il mio barese non è ottimo, però sapete cosa vuol dire questo detto, no? Traduciamo per chi ci segue su YouTube da Milano. Che a lavare la faccia all'asino si perde solo tempo, acqua e sapone. Cioè è inutile fare uno sforzo nei confronti di un ciuccio, nei confronti di un asino, perché il risultato non sarà mai soddisfacente e non otterrai nulla di buono. Ora, io credo che Gesù, se insegna queste cose, se capitoli interi del Vangelo sono scritti e riportano parola dopo parola quello che Gesù ha insegnato, è perché Gesù non ci vede così. Perché Gesù vede te e dice: tu non sei un ciuccio. Io con te non perdo acqua, tempo e sapone. Io so che tu sei mio figlio, tu mi appartieni, tu mi stai ascoltando, tu mi stai leggendo e io credo in te e credo che tu puoi vivere una vita beata, tu puoi essere beato. E quindi è una scelta nostra questa sera, a partire da questo momento, dire: io non voglio essere un ciuccio e non voglio che Gesù si ritrovi a dire che con me ha speso acqua, sapone e tempo inutilmente. Io voglio far mio i suoi insegnamenti. Amen? È una scelta che vogliamo fare. Quindi leggete con me in Matteo, anzi ve le cito io, in Matteo 5 ci sono tre beatitudini che Gesù cita che hanno a che fare non solo con le relazioni che noi scegliamo, ma come ci rapportiamo a qualsiasi relazione abbiamo. Ok, perché il segreto non è solo scegliersi la giusta compagnia, è sano, è saggio, è buono, sarà una benedizione per te, perché la vita dipende dalle relazioni, la tua vita può essere un incubo se hai pessime relazioni e sarà una favola, sarà una benedizione, sarà un sogno, sarà un realizzare conquiste se hai delle buone relazioni, quindi scegli con chi relazionare, però Gesù lo porta a un livello superiore. E dice: con chiunque voi vi relazionate, voi avete la possibilità di godere sane relazioni, di essere beati, di essere degli uomini felici. E quindi lui dice: beati i mansueti, beati i misericordiosi, beati coloro che si adoperano per la pace. Ora, sono termini che noi abbiamo ascoltato, riascoltato, sono a volte nella nostra mente memorizzati come termini bigotti, religiosi e senza senso. La misericordia, no? La già beatitudine, no? A volte non ci dice niente, ci dice tutto e non ci dice niente. L'essere misericordiosi, no? L'essere portatori di pace. Ma in realtà Gesù sta dicendo delle cose concrete. Sta dicendo che noi abbiamo la possibilità di vivere concretamente un modello di vita, uno stile di vita che porta beneficio a noi, che ci fa godere di essere felici, contenti di quello che viviamo, e questo dipende dalla misura con la quale noi comprendiamo questi termini e li facciamo nostri. Gesù sta dicendo: tu sei beato se sei mansueto, che significa se sei paziente, se sei paziente. Sii paziente, c'è felicità nella pazienza. Sta dicendo, mansueto significa anche docile, mite. Se tu scegli la via della mitezza, si dice così, della docilità, tu godi di felicità. Forse non la prima volta, perché ti bolle tutto dentro, no? E dici, no, devo essere paziente, il pastore l'ha letto domenica, fammi essere paziente, e il bollore aumenta, la faccia diventa rossa, vorresti scagliarti contro tutti e tutto. Ma nel momento in cui tu cominci a far tuo questa caratteristica, la mansuetudine, inevitabilmente ti stai appropriando della gioia di vita. Sarai benedetto, sarai beato, misericordioso. Che significa essere misericordioso? Guardate bene, questo vale per tutti i rapporti, per tutte le relazioni. Con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, vale con i tuoi parenti, parenti stretti. C'è un altro detto barese che riguarda i parenti stretti, però non citiamo tutti i versi, tutti i detti baresi. Lo sto ricordando, viene a ridere. Allora è questo, no? Le parenti sono come le scarpe. Più street sono e più facciano male. I parenti sono come le scarpe, più stretti sono e più fanno male. C'è una forma di verità. C'è una forma di verità. Ma è proprio per questo che Gesù insegna quello che insegna. Perché sta dicendo, voi avete la possibilità di riscattarvi da tutto questo e godere di beatitudine, perché fate vostra la misericordia. Che cos'è la misericordia? La misericordia è quella prontezza, è quella sicurezza, è quella decisione di essere più inclini a perdonare che a non ricambiare il torto avuto. Questa è la misericordia. Il nostro Dio è misericordioso. Dio è misericordioso nei tuoi confronti. Il tuo peccato, i tuoi errori, tutti quelli che leggi, quando leggi la parola di Dio, non sono lì perché Dio vuole puntare il dito sulla tua vita, ma sono lì per farti rendere conto quali sono le cose negative in te. E in tutto questo c'è la copertura di Cristo. Lui ha portato tutto sulla croce perché è misericordioso. Lui perdona i tuoi peccati, Lui perdona i tuoi torti. Noi siamo ribelli più di chiunque altro a Dio stesso, il nostro creatore, e Lui è misericordioso nei nostri confronti. Non sta aspettando che miglioriamo, Lui ci ama così come siamo perché Lui è grandemente misericordioso e dice a noi, se voi a vostra volta siete misericordiosi, sarete beati. Beati quelli che si adoperano per la pace. Sapete in altri termini Gesù che cosa sta dicendo? Sta dicendo, e non solo attraverso le beatitudini, perché se poi voi andate avanti e sfogliate, no, Matteo 5, voi vi renderete conto che Gesù insegna più di qualsiasi altra cosa sulle relazioni. Quindi parte con le beatitudini e poi va avanti parlando dell'ingiuria, dell'offesa e del perdono, della concupiscenza, del ripudio e dell'adulterio, del giuramento, dell'amare i propri nemici, del non giudicare gli altri. Questi sono tutti insegnamenti che voi trovate a partire da Matteo 5, il sermone sul monte. Gesù insegna sulle relazioni. E che cosa sta dicendo? Sta dicendo anche con questa beatitudine che sono beati coloro che sono portatori di pace, che tu puoi essere o parte del problema, oppure puoi essere parte della soluzione. Tu hai la possibilità di scegliere da che parte stare. E l'umanità si divide in due, tra coloro che sono portatori di guerra, perché la guerra è dentro di noi, oppure essere portatore di pace. E Gesù invita il suo popolo, la sua Chiesa, ad essere tutti noi portatori di pace, a prendere un impegno e a dire io starò dalla parte di coloro che allo schiaffo porgono l'altra guancia, che al torto ricambiano con il perdono, che sono misericordiosi, non troppo veloci a rispondere, ma lenti, pazienti, mansueti, miti, dolci. Questo è quello che il Signore Gesù ci invita a fare. E sapete che questo tu lo puoi vivere a partire da stasera. non è qualcosa che richiede un lungo cammino, no? Di meditazione, ti devi andare a rinchiudere in un monastero, andare nel lontano Himalaya e meditare su tutti i tuoi errori fatti. Tu trovi pace e tu trovi tutte le caratteristiche di Cristo nel momento in cui inviti Cristo. È impossibile per te fare quello che Gesù ti dice di fare senza di Lui. È molto facile fare quello che Gesù ti dice di fare chiedendo a Lui di farlo per te. Quindi la tua risposta a questo messaggio, la migliore risposta che puoi dare è sì, io lo voglio. Voglio Cristo al centro. E piuttosto che ricambiare con un'offesa, piuttosto che ricambiare con un litigio, piuttosto che ricambiare con quello che è l'istinto che tu hai, carnale, ti metti in preghiera, cerchi Gesù, chiedi il suo coinvolgimento, ti ripeti queste parole, leggi la sua parola, leggi i suoi insegnamenti, li fai i tuoi, digiuni, lo cerchi, vieni in chiesa, vivi delle relazioni di persone che ti possono incoraggiare a vivere questo stile di vita. Altre persone che l'hanno vissuto, lo stanno vivendo e ti possono insegnare come farlo. Cercati delle buone relazioni. Se hai delle relazioni di persone che ti dicono com'è, tua moglie ha detto così, ah ma dovresti reagire, lo sai. Io a mia moglie le suono, le faccio vedere chi è l'uomo in casa. Beh, quella forse, e togliamo il forse, è una cattiva relazione. E non ti porta ad essere beato, ti porta ad essere dalla parte del problema, non dalla parte della soluzione. Se invece hai quel qualcuno che ti dice, sai Mirko, stai sbagliando. Stai facendo una scelta che è troppo istintiva, è troppo carnale. Ti stai comportando non come Cristo insegna. E sai, ti capisco, anch'io vivo la stessa cosa. Ma preghiamo perché io ce l'ho fatta. Io ho perdonato, io sono riuscito ad andare oltre. Quel tipo di alleanza permettono a noi di essere degli uomini e delle donne felici. Vuoi essere felice? Forse ora stai trovando la chiave per la felicità della tua vita, lo sai? La chiave della felicità nella tua vita è in Cristo e in altre persone che vivono Cristo pienamente e hanno la possibilità anche di essere un po' duri con te e dirti non va bene, devi correggere il tiro. Permetti a quelle altre persone di intervenire. Vogliamo andare avanti con questo messaggio, perché io questa sera, come ha anticipato anche papà, voglio parlare dei gruppi familiari. E sapete perché ci tengo tanto, ci teniamo tanto a parlare dei gruppi familiari e dedicheremo l'intero mese di marzo a parlare dei gruppi familiari? Perché, badate bene, la Chiesa sono relazioni. La Chiesa non è un programma, non è una liturgia. La Chiesa non è esattamente quello che sta succedendo ora, o almeno non è solamente quello che succede ora in questo momento, dalle 7 alle 8:30. Dio ce la mandi buona, perché insomma forse andremo un po' oltre. Non è questo Chiesa. La Chiesa è vivere la componente delle relazioni nelle nostre vite. E tu la componente delle relazioni cristiane, logicamente. E tu forse lì puoi stare a dire, ma Mirko, vuoi dire che io che vengo in chiesa ogni domenica da 20 anni e non ho delle relazioni, delle alleanze con altri credenti, non sono parte della Chiesa stessa? Non vivo la completezza della Chiesa? Sì. Vorrei dire, no, vabbè, tranquillo, non ti preoccupare, mi fa piacere che vieni la domenica, è bello averti, dai, stai facendo un ottimo lavoro. Vorrei dirti questo, ma se tu non vivi i gruppi familiari, se tu non riporti la tua esperienza di Chiesa alla tua settimana, se tu vivi la domenica in chiesa e poi il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, con tante altre relazioni, senza un impegno di vivere delle relazioni nelle quali intenzionalmente metti Cristo al centro, non stai vivendo la completezza della Chiesa. Non lo dico io, lo dice la parola di Dio. È per questo che noi abbiamo i gruppi familiari, e sapete una cosa? Anche i gruppi familiari sono incompleti, non basta neanche che noi ci vediamo una volta ogni 15 giorni, ma sono un buon punto di partenza, perché nel gruppo familiare tu ti riunisci con poche persone e hai la possibilità di creare quello scambio, di cominciare a intessere delle relazioni con altri credenti, di conoscere personalmente e relazionarti personalmente ad altri credenti e vivere quella beatitudine alla quale Dio ti vuole portare, che sono le relazioni dove Cristo viene messo al centro. Io voglio invitare Domenico, che è un capogruppo della nostra chiesa. Vogliamo fare un applauso a lui? Credo che la maggior parte di noi lo conosciamo. E a partire da questa domenica noi ascolteremo ogni domenica una testimonianza. E quindi Domenico sta guidando il gruppo da quanto? 6 mesi? No, 3 settimane. 3 settimane, freschissimo. Però una bellissima esperienza sui gruppi familiari. Quindi, Domenico, a te il microfono. Quale? Questo? Questo. Te lo devo dare, vero? Sì. Allora, meno di un anno fa mi è stato proposto di far parte di un gruppo familiare. Sono stato spinto principalmente di far parte del gruppo familiare per curiosità, perché io non avevo mai avuto questa esperienza del gruppo familiare. Adesso, dopo alcuni mesi che ho cambiato già 3 gruppi, praticamente, questo è il 3° gruppo, però in questi mesi che io ho partecipato al gruppo familiare, posso dire con certezza e con fermezza che tutto quello che il pastore ha detto finora è vero, nel senso che lo stare insieme in piccoli gruppi ti aiuta molto ad avere quell'intimità, quelle buone relazioni con gli altri, affinché tu puoi anche aprirti il tuo cuore per problemi, puoi aprire il tuo cuore per condividere. E il stare, fare, dare, che spesso impariamo nel corso di consolidamento, viene davvero espresso proprio nel gruppo familiare. La cosa bella di questi 3 gruppi che io ho cambiato in questi pochi mesi, anche se sono differenti uno dall'altro, c'è sempre qualcosa di differente uno dall'altro, è che c'è un membro particolare che è Cristo. È un membro familiare, proprio del gruppo familiare, che rende ogni gruppo speciale. Sì, fantastico. Grazie Domenico. È così. Sapete, se dovesse venire a mancare quel membro, sarebbe comunque molto bello, ma non efficace. Noi abbiamo tanti gruppi familiari. Tu hai delle comitive. Tu hai sicuramente amici con i quali vai fuori, prendi una pizza, però non c'è quel membro del gruppo che fa la differenza. È per questo che è indispensabile, importantissimo, che tu vivi il privilegio, perché è un privilegio, di far parte di un gruppo familiare, perché hai la possibilità di vivere relazioni nelle quali Cristo viene messo al centro. Non fai ancora parte di un gruppo familiare? Lascia il tuo nominativo, puoi andare al punto info, puoi dire io voglio farne parte, lo puoi fare stasera, vuoi cominciare a guidare un gruppo familiare, magari fai parte di un gruppo familiare, ne vedi il beneficio, lo puoi cominciare a guidare. E sapete, questo è realmente fare Chiesa, perché la Chiesa sono relazioni, e le relazioni è ciò che più ci viene stimolato, incoraggiato di fare dalla parola di Dio, nel intessere, nell'edificarci, nel mettere Cristo al centro. E io ho da condividere con voi quello che è una riflessione su una parolina molto particolare, che è una parolina greca che, pensate un po', è ripetuta nel Nuovo Testamento ben 193 volte. Può sembrare una parola insignificante, ma a me dice molto della caratteristica della Chiesa, di quello che Gesù ha prestabilito che la Chiesa sia. Sapete che parola è? Impariamo un po' il greco. Alelon. Alelon, lo puoi dire alla persona che ti sta a fianco? Alelon. Non stai dicendo una parolaccia, te l'assicuro. È una parola greca. Alelon. Ora, questo alelon è tradotto nella Bibbia con termini diversi in base al contesto in cui si trova. E viene tradotta con reciprocamente, viene tradotta con gli uni nei confronti degli altri. Quante volte avete letto nel Nuovo Testamento gli uni verso gli altri, gli uni nei confronti degli altri, o fra di voi, o reciprocamente? Tantissime volte. 193 volte l'hai letto nel Nuovo Testamento, e in queste 193 volte accompagna questo avverbio 40 istruzioni diverse che vengono affidate alla Chiesa, delle istruzioni specifiche che ci vengono affidate e che noi come Chiesa abbiamo il privilegio di poter vivere. Parole e verbi come perdonare, onorare, amare, incoraggiare, edificare, esortare, la lista ragazzi, è lunghissima. Io ieri mi sono messo, ho cominciato a scrivere tutti i versi dove veniva citata questa parola, e più andavo avanti e più le pagine si riempivano, ho riempito 3 pagine di quaderno con istruzioni che sono affiancate da questa parolina. Perché credo che sia così importante? Perché un conto è che Dio dice alla Chiesa: vi dovete, amate, perdonate, accogliete, confortate, onorate, edificate, istruite, correggete, aspettate, servite, sopportate, sottomettete, fate attenzione, confessate, salutate, pregate, ospitate, stimate, eccetera, eccetera, eccetera. Un conto è che la Bibbia dice questo, un altro conto è che la parola di Dio, come fa effettivamente, dice: amate gli uni gli altri, reciprocamente, onorate gli uni gli altri, edificate gli uni gli altri, istruite gli uni gli altri. Sapete perché è così importante? Perché sfata quel mito e quel pensiero religioso che si è instaurato dentro di noi, dove in fondo, anche se non ce lo diciamo e anche se non lo ammettiamo, noi crediamo che la Chiesa è qualcosa che alcuni fanno per i molti. Quando invece la Chiesa prevede che tutti fanno per tutti. Non è il pastore l'unico a istruire. Non è la squadra pastorale l'unica a edificare, a esortare, a servire. La parola di Dio sta dicendo: se sei credente, se ami Gesù, se vuoi seguirlo e vuoi godere del privilegio di fare Chiesa, abbraccia e fai tuo questo avverbo e comprendi che è uno scambio, è reciproco, che quando vieni qua tu hai da dare qualcosa a qualcuno, tu hai da edificare qualcun altro. Oh, siete diventati molto silenziosi, spero che non vi turba questo. No, non sto dicendo che sei messo in una condizione di dover sempre tenere un microfono in mano, ma in realtà hai sempre un pulpito dal quale poter predicare e incoraggiare il tuo fratello. E lo Spirito Santo ti sta incoraggiando a fare questo. Se noi comprendiamo questo, fratelli e sorelle, noi entriamo nel vero privilegio di fare Chiesa. Sapete perché? In realtà è nel dare che noi siamo benedetti. Se tu vivi un cristianesimo dove ricevi, ricevi, ricevi, ricevi, ricevi, e vieni, e ascolti, e vedi altri fare, sei spettatore di quello che è invece un grandissimo privilegio, una grandissima benedizione che è riservata anche a te. Quando? Quando hai finito il C3, il C4? Da subito, credi in Cristo Gesù, sei stato battezzato in acqua, hai ricevuto lo Spirito Santo, sei pronto ad essere un pastore. Sei pronto ad essere un evangelista, sei pronto ad essere colui che edifica, sei pronto ad essere uno che crea un contesto di pace, sei pronto ad essere uno che trasforma la sua classe, sei pronto ad essere uno che trasforma il posto di lavoro, sei pronto a cambiare il contesto familiare in cui ti trovi, sei pronto a cambiare la tua relazione matrimoniale e a farla rendere un esempio per altri matrimoni, sei pronto ad essere un figlio che ha qualcosa da dire a una generazione che si sta perdendo, sei pronto a vivere tutto questo. Questa è la chiamata all'azione alla quale Gesù ci invita. E noi lo possiamo vivere questo, domenica dopo domenica, incontro dopo incontro, scambio dopo scambio. Sai di qualcuno che è in ospedale? Non aspettare che vada qualcun altro, vai tu. Perché ti chiedo di andare? Perché è necessario che la persona sia visitata, sia amata. Non lo dico perché sarai beato, perché c'è beatitudine nel vivere quello che Gesù ti chiama a vivere. Io credo che questa sera ciascuno di noi può fare una decisione. Tutti possiamo fare una decisione. E non significa che devi stravolgere completamente la tua vita, ma è aprirti a una di queste istruzioni. Ne vogliamo leggere una? A conclusione. Stamattina ho letto un verso, stasera ne leggo un altro. Ce ne sono 193, abbiamo da scegliere solamente. Stasera voglio leggere con voi Ebrei 10. Se volete sapere cosa ho letto stamattina, Potete andare su YouTube e andare alla fine della predica e ascoltare, no? Ma Ebrei 10 dice questo. Dice, versetto 24, e consideriamo gli uni gli altri. Consideriamo Alelon. È Alelon. Alelon è un termine un po' particolare. Consideriamo Alelon. Gli uni gli altri. Un'altra versione dice, facciamo attenzione. Prestiamo attenzione gli uni agli altri. Chi ti ha detto che devi fare attenzione o devi prenderti cura solo di una cerchia di persone nella Chiesa? Chi ti ha detto che devi relazionarti solo con un piccolo gruppo di persone? Consideriamo gli uni gli altri, tutti. Tu hai la possibilità di chiederti questa sera, ok, ma il mio fratello Michele Borgia, ho sentito che è ricoverato. Non lo vedo in mezzo a noi. Come sta la moglie? Questo significa considerare gli uni gli altri. E potrei fare infiniti nomi. E sai, tu puoi essere quel mezzo di cui Gesù si serve per edificare, salvare e benedire la vita di un altro. Ma non solo questo. Gesù ti dà l'opportunità nel fare questo di essere un uomo beato, perché c'è gioia nel vivere questo. Consideriamo gli uni gli altri. Per fare cosa? Per incitarci ad amore e buone opere. Io con papà non mi sono messo d'accordo, però lui ha letto uno dei versi e ce ne sono, pensate un po', 20 versi nella Bibbia che ripetono, soprattutto in 1 Giovanni, e dice amatevi gli uni gli altri. Amatevi Alelon. Alelon, gli uni gli altri. Amate gli uni gli altri. E qua ci dice che noi possiamo incitarci a buone opere e a amore, gli uni agli altri. Possiamo affiancare la persona e dire, beh, per quella storia che mi hai detto, sei riuscito a perdonare. Questo è incitare ad amore, questo è incitare a buone opere. Per quella situazione di cui abbiamo parlato, sei riuscito a prendere l'impegno di pregare. Stai riuscendo a leggere, a pregare, a stare con il Signore. Qualsiasi altra cosa che rientra in questo incitarci alle buone opere porterà benedizione in te. Non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare. Qui è un po' spinosa, no? Ci sono alcuni che hanno l'abitudine, no? Di abbandonare la comune adunanza, no? Di venire una domenica sì e poi cinque... Oppure di venire una volta al gruppo e poi per altre tre volte no. La parola di Dio ci incoraggia a prenderci cura l'un l'altro e a fare attenzione gli uni agli altri in modo tale che tutti possiamo godere del beneficio costante di partecipare agli incontri di chiesa. Perché vedi, quello che tu stai ricevendo questa sera probabilmente non l'avresti ricevuto, sicuramente non l'avresti ricevuto se fossi stato da un'altra parte. Ti senti benedetto, stai bene in questo momento, stai ricevendo da parte del Signore, ti sta riscaldando il cuore. Ma perché vorresti rinunciare a questo sostituendolo a una poltrona e a un programma televisivo? Perché dovresti fare qualsiasi altra cosa, quale andare a prendere una pizza o una passeggiata? Questo è tempo di qualità che ti dà la possibilità di vivere la piena benedizione che Dio ha per te. Io non lo dico per un tornaconto mio personale. Non cambia la mia vita se ci sei o non ci sei. Amo quando ci siamo. È logico che è una benedizione per me quando ci siamo. Ma lo dico per te. E lo stesso vale per i gruppi. Noi li facciamo una volta ogni 15 giorni proprio perché non vogliamo che sia impegnativo, ma io dico possibile che riusciamo a mancare una volta ogni 15 giorni. Quali impegni di vita diventano così ingombranti da derubarci della gioia di relazionarci, edificarci in Cristo e crescere spiritualmente? Prendi l'impegno questa sera. E questo dobbiamo fare gli uni nei confronti degli altri. Ehi, non c'eri, domenica scorsa non ti ho visto. Non per giudicare, non per appesantire l'altro, ma con amore, no? Per affiancare, per esortare alle cose buone, perché vuoi il meglio dell'altro. Non giudicare, non far pesare all'altro che non viene. Magari aveva un'ottima ragione per mancare all'incontro. Non facciamo questo con troppa superficialità, però facciamolo perché ci amiamo, perché ci vogliamo bene. E poi va avanti il verso dicendo, no? Non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci all'elon, a vicenda, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Io sono benedetto da relazioni che mi esortano. Io ho mio padre che è un'esortazione continua per me. Io ho mia madre che è un'esortazione continua per me. Lo fanno direttamente e anche tantissime volte indirettamente, con il loro amore. Ho delle relazioni, la squadra pastorale attorno a me, io sono esortato da ciascuno di loro. A volte dura, a volte pesante, ma in fin dei conti, quando torno a casa, ringrazio sempre. Perché anche quando qualcuno dice una cosa di sproposito e non sa effettivamente quello che vivo, io so che l'ha fatto per amore nei miei confronti. Perché vuole in fondo il meglio per me. Esortiamoci gli uni gli altri. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Stasera abbiamo la cena del Signore. Quale occasione migliore per prendere delle decisioni davanti a Dio? Di essere chiesa. Di essere coloro che abbracciano pienamente questo avverbio, alelon. Io voglio essere, io voglio vivere l'alelon. Io voglio essere uno che porta uno scambio di pace, di misericordia, di amore, di mansuetudine, di ospitalità, eccetera, eccetera. Vuoi tu farlo con me? Preghiamo allora. Preghiamo, chiudiamo i nostri occhi. E se vuoi fare una decisione questa sera, alza le tue mani in arresa davanti a Dio. È bellissimo stare con le mani alzate in cielo perché è il gesto più bello anche che biblicamente ci viene incoraggiato di fare, quale segno di arresa. E noi Gesù alla tua presenza ci arrendiamo. Noi riconosciamo Gesù che senza di te noi non riusciamo a vivere delle relazioni sane, pacifiche, di benedizione. Noi non ci sentiamo tante volte beati, felici, siamo piuttosto in conflitto, siamo piuttosto infelici perché le relazioni sono difficili, ma chiediamo il tuo aiuto. Io chiedo il tuo aiuto, Gesù. Questa sera la mia preghiera è per me e per i miei fratelli e per le mie sorelle, per la Chiesa tutta. Noi chiediamo il tuo aiuto, Gesù. Noi sappiamo che tu sei vivo e ci stai ascoltando in questo momento e io prego che tu possa dare a noi la capacità di essere delle persone diverse, trasformate dal tuo amore, capaci ad amare come tu ami, capaci a perdonare, capaci ad essere portatori di pace, capaci ad esortare, edificare, ospitare, stimare, onorare i nostri fratelli e sorelle. Pare se ci sono dei bagagli, dei legami, delle cose che pesano sul cuore di qualcuno di noi, per torti subiti, per ferite subite, parole dette. C'è la difficoltà di perdonare. Io ti prego nel nome di Cristo Gesù affinché la tua misericordia possa entrare nel cuore del mio fratello, della mia sorella, e tutti noi questa sera possiamo perdonare il nostro prossimo per qualsiasi torto, per qualsiasi ragione, per qualsiasi cosa che abbiamo subito. Noi chiediamo il tuo intervento affinché possiamo lasciare andare libera quella persona o quelle persone ed essere noi liberi a nostra volta. Grazie Gesù della gloria e l'onore. Rimaniamo alla sua presenza. Continua a pregare. Ora prega la tua preghiera. Chiedi a Dio ora di intervenire in quell'area specifica nella quale sai che lo Spirito Santo ti ha parlato questa sera. E durante questo coro prendi degli impegni, fai delle dichiarazioni a Dio. Esci da questo locale cambiato e trasformato dall'impegno che prendi davanti a Lui.